Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, il governo ha promesso di lavorare sodo anche quest'estate. Uno degli obiettivi che si è posto Renzi è quello di piegare il potere della burocrazia, e allora per seguire questo tentativo del Presidente del Consiglio vi consiglio di dare un'occhiata al libro di due giornalisti di Repubblica, Roberto Mania e Marco Panara. Il loro libro si intitola Nomenclatura, chi comanda davvero in Italia, pubblicato dalla Terza, 160 pagine, 15 euro. La situazione che si è creata, scrivono gli autori, è il frutto di una forte fragilità politica. Questa, scrivono, è la novità, la politica che arretra, convinta essa stessa di non avere proposte, idee, progetti, tanto da lasciare uno spazio illimitato di intervento a tecnici, consulenti, già consiglieri dei principi. E il consigliere, concludono, che diventa governante. E anche l'Europa ha fatto la sua parte, ponendo dei vincoli molto forti che danno ulteriore spazio e potere alle elite tecnocratiche. Particolarmente interessante in Italia una caratteristica, e cioè quella che gli autori chiamano la mancanza di pluralismo, nel senso che questi burocrati appartengono tutti alla stessa cultura, usano lo stesso linguaggio, hanno una omogeneità culturale che li accomuna al 100% e che hanno i loro esempi più efficaci nella tecnocrazia della Banca d'Italia e del Consiglio di Stato. Nel libro viene descritto come funziona il sistema, quali sono i gangli di questo potere nascosto ma ramificato e molto autorevole, i conflitti di interesse che si sono intrecciati e naturalmente le principali figure che danno spessore a questo potere. Ma adesso sentiamo uno degli autori. Buonasera a Roberto Mania. Buonasera a voi. Roberto Mania, come ricordavo, il vostro libro parte dalla tesi che la nomenclatura, come voi la chiamate, ha preso tutto questo spazio perché c'è stato un arretramento della politica. Ecco, secondo voi la politica ce la può fare a riprendersi il proprio ruolo? La politica ce la deve fare. E questo è il compito della politica. Il fatto proprio dell'indebolimento progressivo della politica ha permesso a un partito senza potere, come noi lo definiamo, di prendere in mano le redini del paese, e non lo ha cambiato in meglio, lo ha reso praticamente immobile. Noi siamo 20 anni, no, che discutiamo di riforme, di cambiamento. In realtà è accaduto pochissimo, e quel che è accaduto ha peggiorato il sistema, anche i processi di selezione della classe dirigente. E ci ritroviamo oggi con una richiesta dell'opinione pubblica, che la politica riprenda il suo ruolo, indichi degli obiettivi e pieghi, tra virgolette, la nomenclatura, la burocrazia a realizzare quegli obiettivi. Uno dei centri di potere che voi analizzate è il Ministero dell'Economia e della Finanza, il MEF, il famoso MEF, che voi chiamate addirittura un mostro di influenza, che però non ha creato una elite, scrivete nel vostro libro. Come mai è successo questo fenomeno? È vero questo, perché non c'è stata la selezione. Nel nostro sistema negli ultimi decenni abbiamo avuto sostanzialmente un luogo soltanto dove è cresciuta una classe dirigente adeguata ai cambiamenti, anche ai processi di integrazione europea, e quella è la Banca d'Italia. Non è un caso che abbiamo avuto un paio di presidenti del Consiglio provenienti dalla Banca d'Italia nei momenti più difficili del sistema economico italiano, pensiamo a Ciampi, poi a Lambertolini. Non è un caso che alla Banca Centrale Europea ci sia Mario Draghi, per quanto abbia avuto un percorso abbastanza ricco, con uno stazionamento anche al Ministero dell'Economia. Il Ministero dell'Economia era chiuso in se stesso, è autoreferenziale, parla poco con l'esterno e ha racchiuso in sé un potere decisivo proprio nel rapporto con l'Europa. E pensiamo negli anni passati, ogni volta che si faceva una proposta il problema era mancano le coperture, i tecnici non trovavano la copertura e la politica arretrava, non ha fatto nulla, è rimasta bloccata e non ha trovato le risorse per cambiare anche la redistribuzione del reddito. L'economia in questo è stato decisivo, ha segnato alla politica economica di questi anni, che anche nonostante i mutamenti delle maggioranze dei governi è stata sostanzialmente identica. Uno dei riti nel quale si officia questo potere delle elite burocratiche è il cosiddetto pre-consiglio dei ministri. Che cosa succede in questo misterioso momento? È il momento chiave della decisione a Palazzo Chigi. Palazzo Chigi è la sede del governo. Prima della riunione del Consiglio dei Ministri si riuniscono i tecnici che valutano le proposte dei ministri che devono essere esaminate al Consiglio dei Ministri. È un momento chiave perché lì si selezionano i provvedimenti che hanno accesso al Consiglio dei Ministri e si tratta tra ministri. Nel passato, per esempio, il preconsiglio è stato condizionato dal ruolo proprio del Ministero dell'Economia. Oggi una delle ragioni per cui il nuovo governo Renzi ha difficoltà ad attuare alcuni provvedimenti sta proprio nella debolezza in qualche modo dei tecnici, sembra paradossale, che il governo si è scelti. Pensiamo all'ultima riforma della pubblica amministrazione. Il lavoro che è stato fatto nel preconsiglio è stato sostanzialmente insufficiente, aveva diverse lacune e i tecnici più bravi del Quirinale l'hanno bloccato, l'hanno diviso in due provvedimenti, hanno impedito che alcune norme venissero anche apportate al Consiglio dei Ministri. A un certo punto voi esaminate il bilancio di questo potere, che non è un bilancio positivo, scrivete che in 10 anni la spesa pubblica è aumentata, la pressione fiscale pure, il debito lo stesso ed è peggiorata la qualità dell'amministrazione e dei servizi dei cittadini. Il numero delle leggi si è gonfiato a dismisura, diventando inestricabile. L'impressione è che in parte per tutelare lo Stato e sempre attenti a difendere se stessi e i loro interessi, questi consiglieri abbiano finito per acquisire un potere proprio. Ecco, questa mi pare che sia il paradossale risultato al quale siamo arrivati. Questa è la nostra chiave di lettura. L'impressione che ho in questi 3-4 mesi di nuovo governo è che il governo stia cadendo nella stessa trappola. Mi spiego, un governo viene chiesto essenzialmente di governare un paese, di attuare ciò che già esiste. Faccio un esempio, al governo viene chiesto di far pagare le tasse agli evasori, viene chiesto di mettere a norma le scuole pubbliche, non è necessario nuove leggi per realizzare questi obiettivi. Eppure questo governo è caduto nella trappola della ipertrofia legislativa, tutto passa attraverso una nuova legge. E poi cosa succede? Succede quello che ci ha detto il governatore della Banca d'Italia nelle sue ultime considerazioni finali: delle 69 riforme presentate e approvate dai governi tra il 2011 e il 2013, soltanto la metà è stata attuata. Lo stesso governo Renzi in 3 mesi ha approvato centinaia di provvedimenti, ha bisogno di tantissimi decreti attuativi e prima che arriveranno dipenderà proprio dalla nomenclatura. Uno dei luoghi in cui si esercita questo potere è la gestione del bilancio pubblico. Voi scrivete che ci sono tenebre sul patrimonio dello Stato, sul bilancio e sulla spesa pubblica, quindi è veramente così difficile, quasi impossibile uscire da questa situazione. Il povero Cottarelli in questa situazione cosa può fare? Beh, si è visto in questi mesi, Cottarelli è stato presentato come il salvatore della patria. Via via il suo ruolo si è indebolito, si è oscurato, no? Io credo che, quello che dicevo prima, io credo che le burocrazie abbiano un potere immenso, sono gli unici che conoscono davvero le regole del gioco e il fatto che il governo abbia accettato la logica della competenza giuridica è tutta, è una frase che noi riportiamo nel libro ed è di Pasquale Delise, un ex potente, un ex presidente del TAR del Lazio, un ex presidente del Consiglio di Stato, il quale spiega che tutto ciò il potere centrale sta nelle competenze giuridiche, nella norma. Questa è una cultura che ha pervaso la pubblica amministrazione italiana. Noi siamo circondati da amministratori, da burocrati che hanno una cultura giuridica in cui prevale la procedura anziché il risultato e l'impressione che ho che anche in questi mesi si stia percorrendo una strada simile che porterà probabilmente a scarsi risultati, al di là delle illusioni che genera in questo periodo. Infatti voi scrivete a un certo punto che questa amministrazione non pensa, anzi che è vietato pensare. Esattamente, questo ma in fondo noi se guardiamo a ritroso in questi anni, noi abbiamo vissuto anni di grandissima tensione sociale, l'opinione pubblica chiedeva le riforme, prima le chiede alla politica, pensiamo agli anni, ai primi anni 90 con la caduta della Prima Repubblica, la richiesta di innovazione, la richiesta di modernità, ci si affida a Berlusconi, alla Lega, quei soggetti politici che incarnano questa tensione. Poi via via non si realizza nulla e c'è paradossalmente una richiesta di tecnicismo, di tecnocrazia. Sono gli stessi cittadini e spesso mi è capitato in questo periodo in cui abbiamo discusso del libro, c'è da parte dell'opinione pubblica una richiesta ancora oggi di tecnocrazia, di conoscenza. In realtà proprio questo è il meccanismo che non ha portato da nessuna parte. La mancanza di leadership politica ha permesso a una burocrazia che è per sua vocazione non ha una visione politica, gestisce l'esistenza, l'esistente, e spesso lo fa anche per propri interessi. Una tecnocrazia che si ammanta di europeismo, voi scrivete. Sì, l'Europa, c'è questa tenaglia, tra virgolette, che ha esercitato un potere immenso in Italia. Da una parte il potere burocratico, tecnocratico della Commissione di Bruxelles, della stessa Banca Centrale Europea, e dall'altra una tecnocrazia interna. E il combinato disposto non ha aiutato il Paese. Ma non è un caso che vi sia questo largo consenso intorno a Renzi. Renzi personifica una politica che ha a parole finora il coraggio di sfidare questi poteri. E secondo lei ce la può fare a cambiare veramente? Secondo me Renzi fa un'analisi corretta, ha avuto anche il coraggio di sollevare alcuni temi, pensiamo al tetto delle retribuzioni di questi grandi burocrati, però ripeto, l'impressione che stia cadendo nella stessa trappola, quella della ipertrofia normativa, della legge che serve a cambiare tutto, in realtà non cambia nulla, e quindi finirà per dare ancora nuovo potere a queste burocrazie che dietro le quinte muovono i fili di tutto. Non sarebbe utile sfrondare qualche authority, per esempio? Assolutamente, tant'è che Renzi lo ha proposto e c'è stata la ribellione in Parlamento di queste authority di garanzia. E le authority di garanzia servono per liberalizzare i mercati, per rendere competitivo più il sistema. Ma anche lì, a parte il fenomeno assolutamente interessante ma curioso delle porte girevoli, per cui uno entra in un'autorità e finisce in un'altra nell'arco di pochissimi anni, con competenze evidentemente non sempre inadeguate, le authority sono diventati centri di potere ma anche di immobilismo. È difficile trovare in Italia una decisione di un'authority che abbia influito sufficientemente nel sistema a cambiare le carte in tavola, gli equilibri del potere a vantaggio dei cittadini. Grazie a Roberto Mania, autore con Marco Panara di Nomenclatura, chi comanda davvero in Italia. Ma c'è un'altra lobby che rovina l'Italia ed è quella che alimenta i propri appetiti con le grandi opere pubbliche. Queste lobby troviamo descritte nel libro di Giorgio Barbieri e Francesco Giavazzi, Corruzione a norma di legge, la lobby delle grandi opere che affonda l'Italia, pubblicato da Rizzoli, 238 pagine, 15 euro. Si parte in questo libro dal Mose, che i due autori considerano un esempio emblematico di quanto in Italia la realizzazione di un'opera pubblica, a partire dal progetto e dall'appalto, inneschi un meccanismo di corruzione, tempi infiniti, mancanza di controlli e costi che lievitano proporzionalmente al diffondersi della corruzione. Ma questo non è un Istanbul ispirato appunto al Mose, è stato scritto prima che scoppiasse lo scandalo veneziano, anche se ci sono alcune righe che lo attualizzano proprio alla luce di quello che è successo negli ultimi mesi a Venezia. Del Mose qui si parla soprattutto però con una proposta finale per arginare la corruzione nei grandi appalti, che dovrebbe essere perseguita soprattutto semplificando al massimo le procedure. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Oggi ricorre il 90° anniversario della morte di un grandissimo scrittore, Joseph Conrad, lo scrittore che era nato in Polonia nel 1857 e si era poi trasferito in Inghilterra. Lo ricordiamo con un libro insolito, un romanzo napoleonico che si intitola Suspense, pubblicato dal Canneto, 310 pagine, 14 euro, ed è tradotto da Camilla Salvagoraggi. Questa è una delle ultime opere di Conrad, pubblicata postuma e incompiuta nel 1925. Anche se l'autore l'aveva meditata a lungo. Conrad aveva avuto un nonno e uno zio che avevano combattuto nella Grande Armée e quindi era sensibile in modo particolare al fascino dell'imperatore, e questo libro è interessante anche perché parte da Genova, che Conrad aveva visitato esattamente 100 anni fa. Il protagonista del libro, il giovane Cosmo, pur essendo un inglese, percepisce il fascino della figura di Napoleone, che resta sullo sfondo insieme all'Isola d'Elba del romanzo, ispirato pure, se non copiato, alle memorie di una nobildonna francese. E sentiamo dal libro di Conrad una traccia del fascino che Napoleone esercitò su giovani come il giovane Cosmo. Cosmo Latham, alle soglie della vita, non aveva adottato nessuno dei contrastanti pareri che i suoi contemporanei manifestavano sull'imperatore Napoleone. Per lui, come prima per suo padre, il mondo era uno scenario di emozioni conflittuali, dove gli eventi razionalmente valutabili mantenevano un aspetto ambiguo e misterioso. Una sera, durante un'oziosa chiacchierata con dei giovani coetanei, se n'era uscito a dire che Bonaparte gli sembrava l'unico uomo fra tanti vecchi spaventapasseri. «Guardate come li butta giù tutti», aveva spiegato. Ci fu un momento di silenzio. Poi una voce obiettò. «Allora forse non è così grande come cerchi di farlo sembrare». «Non volevo dire questo», fece Cosmo in tono più serio. «Nessuno può ammirare quell'uomo più di quanto lo ammiri io. Forse il mondo non sarebbe peggiore di quel che è a causa di qualche spaventapasseri lasciato ai margini di ciò che è buono e giusto. Volevo solo esprimere il senso della forza trascinante del suo genio». Un altro romanzo conradiano è Il Salvataggio, che uscirà a settembre, tradotto da Fabrizio Pasanisi. Questo invece è un romanzo marinaro ambientato nel mare dell'Indonesia, dove si intreccia il destino personale dei protagonisti con le tempeste dell'oceano. Tornando a Napoleone, vi segnalo che è uscita una biografia intitolata appunto Napoleone di Herbert Albert Lawrence Fisher, uno storico inglese vissuto tra il 1865 e il 1940, che ripropone in Italia Castelvecchi, 190 pagine, 19,50. Questo è tradotto da Arianna Lo Deserto e Federica Graziani. È una biografia agile e godibile che non si conclude naturalmente con un giudizio benevolo sull'imperatore, scrive infatti lo storico britannico, che nonostante disponesse delle più alte doti intellettuali mai concesse a un uomo e nonostante avesse reso numerosi splendidi servigi alla legge, all'amministrazione, al progresso intellettuale e morale della Francia, Napoleone rimane il più grande esempio moderno di quella feroce e insolente arroganza che fu tema della tragedia antica e che è in contrasto con l'armonia della vita umana. E in appendice al libro troviamo alcune massime dalle quali mi piace citarvene in particolare una: siate chiari, il resto verrà da sé. Un personaggio napoleonico che fece una brutta fine esattamente 200 anni fa è il novarese Giuseppe Prina, che fu ministro delle finanze nella Repubblica Italiana che Napoleone proclamò a Lione nel 1802. Di Napoleone Prina sarà un fedele cortigiano, ricevette anche il titolo di conte e soprattutto fu un amministratore che importò a Milano robuste dosi di quella che oggi chiamiamo austerità. E quando Napoleone un gruppo di nobili milanesi organizza un tumulto per impedire che il figliastro di Giuseppe di Beauharnais diventi re d'Italia e il tumulto prende di mira proprio Prina, che viene fatto precipitare dal balcone in piazza San Fedele e poi finito a colpi d'ombrello. E a questa vicenda drammatica è dedicata il libro di Paolo Cirri, Giuseppe Prina, il genio delle finanze di Napoleone, pubblicato da Interlinea, 48 pagine, 5 euro, con molte illustrazioni, che è anche un'ottima guida alla Milano napoleonica dell'Ottocento. Vi segnalo questo libro sul Prina, che appunto cercò di portare l'austerità e di cessare le abitudini alla prodigalità del passato, perché ci sono anche libri che invece elogiano quella prodigalità. Vi segnalo per esempio il libro di Jacques Gilbert Humbert, che fu un funzionario della Francia post-napoleonica, che si intitola semplicemente L'arte di far debiti, è pubblicata da Barion, 116 pagine, 7,90 euro. Un pamphlet questo sull'uomo comme il faut, come scrive l'autore, sull'uomo come si deve, l'uomo di mondo, per il quale le rendite sono un diritto. Secondo l'aurea regola, più si fanno debiti, più si ottiene crediti, che viene commentata nella prefazione da Giuseppe Pontigia, il quale ancora nel 1996 paragonava l'arte di far debiti con le politiche di spesa pubblica seguite in quegli anni anche dall'Italia. E anche l'economista Pierangelo da Crema conclude il libro con una postfazione nella quale scrive che il sistema economico mondiale è istituzionalmente fondato sul debito. Nessuna esagerazione, le cose stanno così. E quindi da Crema conclude con questa domanda: è così fuori luogo immaginare che l'arte di far debiti, sempre più diffusa, diventi una droga, un vizio di tutti e che alla fine riesca a scardinare le regole imposte da un dio, quello del denaro, tanto pronto a chiedere sacrifici quanto restio a elargire benefici? Come vedete, domande che partono da lontano ma che affondano poi nella nostra realtà. Un artista del debito fu un grande scrittore, il grande Balzac, che ci viene presentato in poche ma potenti pagine da Octave Mirbeau, che fu giornalista e scrittore francese, morto nel 1917, e che così appunto spiega l'ostracismo di cui Balzac soffrì. Balzac aveva cattiva reputazione. Non sapeva amministrare da buon padre di famiglia né il suo nome né la sua opera. No. Non apparteneva al mondo della bohème, che sappiamo inadatto all'Accademia. Era molto peggio. L'Accademia ammette che si possa essere ubriaconi, debosciati, ladri, parricidi, atei e perfino che si sia dotati di una certa genialità, a condizione di essere molto duchi, molto cardinali o molto ricchi. Fin tanto che non si conoscano quei difetti, o che essa sia la sola a saperlo, indulgente nei confronti del male che si ignora, è spietata per la disgrazia risaputa. Non poteva ignorare il fatto che Balzac fosse in pessime condizioni finanziarie. Alcune sue imprese erano state disastrose. Lui stesso aveva rischiato un clamoroso fallimento. Aveva debiti, brutti debiti, per cui si ammazzava di lavoro nel tentativo di sanarli e per cui, in ultima analisi, è morto. Come un cinghiale in mezzo ai cani, si precipitava contro un intero branco di creditori, avidi e chiassosi. Era davvero inelegante. Nessun rispetto per la proprietà, d'altronde. Generoso e fastoso, come tutti coloro che non hanno niente, i soldi degli altri, non gli rimanevano attaccati alle dita. Comprava gioielli, vecchi mobili antichi, terreni, case di città, case di campagna. A gennaio si offriva cestini di fragole, ceste di pesche che divorava, racconta un cronista del tempo, con una voracità pantagruelica. Sembra che il succo gli colasse ovunque. Il signor Vienne, oscuro, venerabile e arguto poeta, si abbandonava a una tale dissolutezza? Lui, per dessert, mangiava fichi secchi, come tutti. Paghi prima, viva austeramente. Poi si vedrà, diceva il signor Vienne. Balzac non ha pagato. Ha pagato solo con capolavori. Una valuta che non ha corso presso l'Accademia. Queste righe erano tratte dal libro di Mirbeau, La morte di Balzac, pubblicato da Schirà, 70 pagine, 9 euro, tradotto da Hélène Romano. Di Balzac è uscito un curioso libro, Teoria del camminare, pubblicato da Elliot, tradotto da Carla Quercia, 92 pagine, 9 euro. Qui Balzac abbandona le vesti famose di grande romanziere e assume piuttosto quelle dell'antropologo, per così dire, perché considera ed esamina il modo in cui si cammina e da questo studio trae delle valutazioni naturalmente imprevedibili e sorprendenti. Balzac approfondì questo tema facendo delle osservazioni dal Boulevard de Gand, vi esaminò 254 camminate e mezzo perché esaminò anche un signore privo di gambe e si pose la seguente domanda: il fatto che da quando l'uomo ha iniziato a camminare nessuno si sia chiesto perché cammino, come lo fa, se potrebbe forse farlo meglio, cosa avviene mentre passeggia e se non esiste un modo per impostare, modificare e studiare la sua andatura, non è davvero incredibile? Concludendo, Balzac, che meno ci si agita meglio è, scrisse infatti, è necessario occupare poco spazio e muoversi il meno possibile, anche se riconobbe che tutti i grandi re, da Giulio Cesare fino a Napoleone, erano stati in fondo uomini di movimento. Uno dei più famosi ritratti di Balzac è il daguerrotipo nel quale lo ritrasse uno dei padri della fotografia, e cioè Nadar, Félix Nadar, che fu anche un grande protagonista della cultura del suo tempo e di quello di Balzac, la cui straordinaria esperienza è raccontata nel libro di Stéphanie de Saint-Marc, Nadar, un bohemien introverso, pubblicato da Joan Levy, 300 pagine, 30 euro, tradotto da Ximena Rodriguez Bradford. Qui, tra l'altro, si ricorda un racconto dello stesso Nadar che illustra le preoccupazioni che Balzac aveva su questa innovazione tecnologica, che in realtà l'aveva entusiasmato all'inizio, ma che poi suscitò la sua diffidenza. Balzac, infatti, aveva una strana teoria sulla composizione dei corpi, che sarebbero stati un fascio di ombre, un fascio di spettri, e temeva che il daguerrotipo, appunto, potesse interrompere, potesse danneggiare questo fascio di ombre, e quindi, diceva Balzac, moltiplicare gli incontri davanti all'obiettivo di un fotografo equivarrebbe forse a rischiare di perdere in via definitiva la propria essenza. La settimana scorsa è stato ricordato l'anniversario dell'attentato al giudice Rocco Chinnici, che morì nell'esplosione di un'autobomba in via Pipitone Federico a Palermo il 29 luglio 1983. Allora vi segnalo il libro di Fabio De Pasquale e Eleonora Iannelli, Così non si può vivere, Rocco Chinnici, la storia mai raccontata del giudice che sfidò gli intoccabili, è pubblicata da Castelvecchi, 280 pagine, 18,50 €. Rocco Chinnici fu il primo giudice, la prima vittima eccellente che cadde vittima di un'autobomba, era consigliere dell'ufficio istruzione, era capo allora anche di Falcone e Borsellino ed era stato il primo magistrato a utilizzare le tecniche di indagine sui conti e il business della mafia e quindi venne subito considerato un avversario pericolosissimo dalla delinquenza organizzata. E nel libro si sentono anche i figli di Chinnici, Caterina, Elvira e Giovanni, che denunciano l'isolamento nel quale il padre venne abbandonato. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto due voluminose biografie su due figure capitali della letteratura mondiale. La prima figura è quella di Francesco Petrarca, che troviamo nel libro di Ugo Dotti, Vita di Petrarca. 724 pagine, a ragno, 40 euro. Questo è il frutto di una vita dedicata al grande poeta, che è uno dei fondatori della lingua e della letteratura italiana. Un libro che ha anche una carrellata sull'ambiente al quale Petrarca partecipò. L'altra figura è quella di James Joyce, che troviamo nel libro di Richard Ellman, uno studioso americano esperto di biografie americane. Proprio questa biografia su Joyce è il suo capolavoro, un libro del 1959 che viene riportato in Italia da Castelvecchi, 958 pagine, 50 euro, tradotto da Vittorio Sant'Angelo, una biografia assolutamente indispensabile agli appassionati di quello che Dwight MacDonald nella prefazione definisce un ammirevole e spregevole individuo, e cioè Joyce. Un curioso libro di storia è quello di Fabio Mini, che è un generale di corpo d'armata dell'esercito italiano, che si intitola I guardiani del potere, eunuchi, templari, carabinieri e altri corpi scelti, pubblicato dal Mulino, 290 pagine, 16 euro. Per la verità questo non è un libro storico, come dice l'autore, ma una narrazione di fatti storici su questi gruppi speciali che hanno vegliato e continuano a vegliare a difesa dei poteri esistenti. Si parla in questo libro del piano Solo, delle strategie contro il comunismo. Allora vi ricordo il libro, questo non recentissimo, di Giacomo Pacini, che si intitola Le altre Gladio, la lotta segreta anticomunista in Italia 1943-1991, pubblicato da Einaudi, 330 pagine, 31 euro. E infine vi segnalo un romanzo di Fanny Flagg, che è l'autrice di Pomodori Verdi Fritti al caffè di Whistle Shop, che torna con Voli acrobatici e pattini a rotelle a Wings Phillips Station, pubblicato da Rizzoli, 394 pagine, 18,50 €, tradotto da Roberta Zuppet, che è un'altra storia americana ambientata questa volta attorno a una stazione di servizio in California. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo il libro di uno scrittore polacco, grande difensore dei diritti dei bambini, morto nel 1942, Janusz Korczak. Il libro si intitola Re Matteuccio I, il re bambino, illustrato da Massimiliano Di Lauro e pubblicato da Progetit, 16 euro. Qui un bambino diventa re e cerca di governare senza perdere quelle doti insostituibili del bambino che l'autore raccomanda agli adulti di responsabilizzare quanto più possibile. E con questo ringrazio Lorenzo Nespoli, redazione Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.